música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Una persona che non vorrei mai avere come vicino di casa è Jeremy Bentham. Brutto, c'ha una faccia da mastino, capelli lunghi sulle spalle, sembra quasi un marzullo invecchiato, ma c'ha un sguardo cattivo, un naso rapace. Perché? Chi è Jeremy Bentham? Jeremy Bentham, grazie a Dio, è morto nel 1832, è un filosofo, un giurista inglese, stato un politico radicale, un grande teorico della filosofia e del diritto, ma passato alla storia per una cosa infame. Nel 1787 inventò il panopticon. Cos'era il panopticon? Non lo sappiamo, non si sa se era, lo chiamava casa di ispezione, una galera, un carcere, una scuola, un luogo di rieducazione, un ospedale. Era un edificio circolare dove al centro c'era una cella con il sorvegliante e tutte le altre celle erano degli ospiti, dei prigionieri. E il principio per cui l'aveva costruito è che il sorvegliante con un solo colpo d'occhio poteva guardare tutti gli altri, tutti i sorvegliati. E i sorvegliati stavano in questa terrificante angoscia che non vedevano chi li sorvegliava. Quindi magari il sorvegliante poteva andare, non so, andare a fare la pipì, uscire così, ma quelli erano soltanto comunque l'angoscia di qualcuno che li sorvegliasse. E su questo principio poi si è creata tutta una teoria del guardare senza essere visti e dell'angoscia di essere sorvegliati senza saperlo. Sono passati secoli e oggi noi viviamo tutti immersi in un panopticon. Tutti sappiamo che qualcuno può sorvegliarci, tutti sappiamo che qualcuno in un secondo può sapere qualunque cosa dei nostri fatti privati, della nostra vita. Sappiamo che ogni nostro spostamento, ogni nostra parola, ogni nostra impressione, ogni nostro battito di ciglia può essere registrato da qualche parte. Siamo immersi in questo moderno panopticon senza essercene assolutamente resi conto. Lo immaginavamo come una costruzione fatta di cemento, con bastioni, con inferriate, con chiavistelli. Invece è volatile, inesistente. È un panopticon che non vediamo e ci siamo immersi tutti dentro. Regalate un cellulare per spiare chi vi interessa. Ad insaputa di chi lo usa può, se chiamato da numero predefinito, trasformarsi in un sensibilissimo microfono ambientale. Apparentemente sono normalissimi telefoni cellulari, possono ricevere e chiamare. La distanza di trasmissione è naturalmente illimitata. Hey. How was the movie? Oh, not bad. Nella funzione Infinity il telefono può essere lasciato inavvertitamente su un tavolo durante un meeting d'affari. Vi permetterà di controllare gli umori dell'uditorio durante la vostra assenza. Lo sapete perché è un argomento di cui abbiamo già parlato, questa mattina sarà l'argomento principale. I piccoli, indecifrabili e comuni oggetti che in realtà sono dei panopticon. Il cellulare, che in fondo è il prolungamento della nostra esistenza, è il luogo periferico della nostra coscienza, è l'oggetto e la protesi attraverso cui noi ci espandiamo verso il nostro prossimo, gli affidiamo le passioni, le emozioni, le nostre più riservate conversazioni. Sappiamo tutti che è un panopticon, sappiamo che c'è quel sorvegliante, potrebbe esserci, potrebbe non esserci, è lì che ci guarda e ci osserva. 800 24 00 24, sapete che siamo tutti sorvegliati e avete il sottile e colpevole piacere di sorvegliare qualcun altro? Sì, perché tutti abbiamo il piacere poi di sapere i fatti degli altri. Esiste una forma moderna di giornalismo, un termine anglosassone è farsi compiacere i cazzi altrui, è questo il termine. Ci sono dei giornali che sono la punta più alta di questo giornalismo, ma che esistono perché esiste il piacere di sapere i fatti degli altri. Oggi vi parliamo tra l'altro di un evento che è accaduto questa mattina. Per la prima volta un giornale come Novella 2000, che ha sempre spiato i VIP, i personaggi più o meno noti, fotografato, immaginato quali sono le loro tresche, è entrato nel luogo virtuale che noi conosciamo, che è Facebook, che è la grande bacheca dove ognuno di noi mette le proprie foto e racconta la propria giornata. Tanti lo hanno fatto nell'inconsapevolezza che fosse anche quello un panopticon, e questa mattina, ne parleremo in seconda parte, Novella 2000 l'ha presi, fotografati tutti e spiaccicati sul giornale. Quindi ancora una volta abbiamo dato qualcosa di noi stessi spontaneamente alla grande fama di intimità del mondo. Ma anche gli strumenti, come il telefono cellulare di cui abbiamo parlato, capaci di trasferire il nostro privato verso un nascosto sorvegliante, si sono evoluti. Non soltanto sono capaci di riversare la nostra voce, le nostre conversazioni, ma oggi, essendo tutti dotati di una microcamera incorporata che è il nostro terzo occhio, possono anche far vedere quello che noi facciamo in ogni momento. Se cercate uno strumento incredibilmente potente, in grado di non destare alcun tipo di sospetto, utilizzate i nostri telefoni spia, che diventeranno il vostro occhio indiscreto, senza alcun limite di distanza. Senza alcun limite di distanza. Il nostro cellulare spia dispone di una telecamera rotante e può essere chiamato sia da un PC che da un qualsiasi altro cellulare UMTS per avviare la trasmissione automatica dell'audio e del video catturati. L'aspetto è quello di un moderno cellulare, ma all'interno si nasconde un potente strumento di controllo. Avete capito, avete compreso, lo sapevate, non lo sapevate, lo sapete ma non ve ne importa niente, lo sapete, ve ne importa tanto, ma non riuscite a fare a meno di usare queste misteriose protesi che raccontano tutto di noi? 800 24 00 24, vi aspetto, raccontate le vostre storie. Siete mai stati sorvegliati? Avete paura di essere sorvegliati? Avete qualcosa da nascondere? Fate qualcosa per non essere sorvegliati? Avete attivato un'azione di sorveglianza nei confronti di un socio d'affari, una persona a voi cara, un figlio che temete che probabilmente prenda brutte strade? Chiamate 800 24 00 24 e intanto cominciamo a dare voce all'esperto che ci guiderà in questa giungla, in questo panopticon, in queste piccole amate tecnologie che tanto rivelano di noi. Abbiamo in collegamento Antimo Capasso, buongiorno. Buongiorno. Lei dovrebbe essere l'esperto perché si occupa della vendita, della progettazione, della diffusione di questi strumenti malefici ma anche molto utili. Cosa fa esattamente lei? Noi abbiamo un sito dove i clienti possono acquistare, chiunque può acquistare, avendo una maggiore età, dei prodotti che per la video e audio sorveglianza. Quelli che abbiamo descritto corrispondono, diciamo, al vostro listino di oggetti? Sì, ma certo. La prima domanda che le faccio, signor, lei è di Napoli? Sì. Oggi San Gennaro ha rifatto il miracolo, ha visto? Cosa? San Gennaro ha ripetuto il miracolo. Sì. Forse ieri perché ha vinto il Napoli, quindi siamo contenti di questo. Quindi si è liquefatto per questo. Ecco, parliamo di liquefazioni del privato, che probabilmente appartengono più al suo specifico. La prima domanda che le faccio, ma questi oggetti sono legali? Io posso comprare un cellulare spia tranquillamente? No, non è che si possa. I cellulari si dicono spia, proprio cellulari spia, proprio perché è una denominazione così scaturita dall'uso comune delle parole, del gergo, però sono dei software che in effetti, che mettendoli e installandoli su un telefonino, poi fanno sì che si controlli l'audio, gli SMS, i dati, eccetera, eccetera. Ma io posso regalare a mia moglie un cellulare dicendo: cara, ti faccio questo bel regalino, ma in realtà è un cellulare spia che ogni volta che qualcuno la chiama o le manda un SMS appare sul mio. In teoria lei dovrebbe essere informata di questa cosa. Sì, vuol dire l'uso improprio che se ne fa per i venditori, tutti i venditori di questi prodotti, ne siamo... li conosciamo, però voglio dire, l'uso improprio, noi avvisiamo, possiamo firmare contratti che l'uso viene fatto personalmente. Diciamo, costruirli non è un reato, venderli non è un reato, reato è usarli in maniera impropria. Ecco questo. Esatto, cioè voglio dire, se uno intercetta alla propria moglie o a chiunque, è punibile non solo per la privacy, ma anche sull'intercettazione, e quindi è punibile da 1 anno a 5 anni di galera. È come un armiere, dice: io vendo pistole, però è chiaro che non è autorizzo a sparare addosso a qualcuno. Ecco, più o meno può essere questo il paragone. Sì, lo possono fare solo le procure. Cioè, l'intercettazione la procura, il PG, e quindi da lì che si può fare l'intercettazione. Quindi in teoria il vostro cliente ideale dovrebbe essere un investigatore privato o un magistrato? Gli investigatori privati possono fare, cioè possono intercettare solo ed esclusivamente polizia, carabinieri, forze dell'ordine in genere, ma diciamo se un privato vuole intercettare o la moglie o un qualsiasi altra persona, un socio di affari. Però comunque è un dato di fatto che internet è piena di offerte di questi oggetti. Entriamo nello specifico. Il cellulare spia, che è il primo oggetto del desiderio nascosto, funziona veramente? Cioè questo spot corrisponde alla realtà? Io regalo un cellulare con telecamera e cosa posso farne? Posso in ogni momento vedere chi sta nell'ottica di questa telecamera, nel raggio d'azione di questa telecamera? No, allora il concetto è diverso. Con il software, per esempio, noi della nodetective.com, che si trova sul sito, abbiamo dei software che, immettendoli poi in determinati telefonini della Nokia, sono Symbian, danno queste peculiarità, queste funzionalità, cioè quella di controllare l'audio, gli SMS. Il video non è ancora, diciamo... ottimizzato. Sì, perché è ancora, diciamo, allo stato... di solito solo l'audio e gli SMS, i dati si controllano, mentre altre sì, perché cose... chi vuol sapere gli importa di sentire quando sente parlare, la cosa più importante, credo che. Però ecco, questi cellulari modificati oppure comunque messi con software possono essere d'aiuto a chi insomma cioè lo usa per l'ufficio, vuole essere, quindi cioè, che ne so, essere fatti mandare automaticamente gli SMS. Diciamo che c'è anche un uso proprio che può essere fatto, però lei sa meglio di me che l'attenzione per farne un uso di scoprire ciò dove non arriviamo con i nostri occhi. Sentiamo un attimo Roberto. Roberto, buongiorno. 800 24 00 24, se volete saperne di più su chi vi intercetterebbe, su come potrebbe intercettarvi, o volete sapere come funzionano queste cose, il signor Capasso qui con noi. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ah, sì. Io volevo segnalare invece la contraddizione di una società che può vedere tutto. E poi tutte le settimane troviamo sui giornali la persona morta che viene ritrovata dopo 6 mesi in casa, cadi per la strada e nessuno ti vede, nessuno ti tira su, e quindi di fronte all'infinita possibilità poi la realtà è che in effetti la stragrande maggioranza della gente è assolutamente ignorata, trascurata. Sì, ma esiste una sottile lussura e interesse di sapere le vicende intime delle persone, esiste un profondo disinteresse di partecipare ai momenti di difficoltà delle persone, questo non possiamo ignorare i dati di fatto. È chiaro che se si vede la persona sofferente al lato della strada ci voltiamo dall'altra parte, ma è altrettanto chiaro che se capita nel raggio d'azione del nostro cellulare una telefonata privata di qualcun altro, non è che mettiamo giù ma stiamo ad ascoltare. Perché? Allora segnalerò un altro fastidio: io non riesco a liberarmi delle telefonate degli altri quando sono in autobus, in treno, in giro, tutti che vanno in giro per strada predicando i loro affaracci e non si riesce a liberarsene. Ma esattamente il concetto del panopticon: da una parte fingiamo di avere riservatezza del nostro privato, d'altra parte facciamo di tutto per celebrare il nostro privato, a meno che siano delle vicende che possono crearci dei problemi nel mondo concreto, e per questo esistono i telefoni per intercettare. La saluto, c'è un altro Roberto, questa è la mattina di Roberti. Roberto, buongiorno. Buongiorno, volevo segnalarvi che ieri c'è stata una conferenza stampa a Milano, sì, in cui una società italiana ha annunciato la disponibilità per 199,99 euro. Sì, come una volta era il catalogo di Postal Market, costava tutto 99 e vincola 99. Sì, che fa un po' ridere, ma questa è un'altra storia. No, ma le vecchie tecniche della vendita alle famiglie rimangono anche in questi accessori, cioè sì, perdurano questi... La moglie disse al marito ha speso 100 euro, non 200. Ecco, in questa scatola cosa c'è? Andiamo. Questa scatola è una piccola scatola, grossa molto meno di un pacchetto di sigarette, che infilata nella borsa, nella giacca di qualcuno, permette a un altro via internet o via telefono cellulare palmare, sì, di sapere sempre dov'è la persona e di avere un allarme se la persona entra in certe aree o esce da certe aree. Quindi una sorta di GPS per persone. Un tracking personale che viene ovviamente venduto con l'idea controlli tuo figlio, il che fa anche un po' ridere, perché basta un foglio di carta stagnola, avvolgerlo intorno e il controllo. Sì, però se lo si trova, se uno lo nasconde in macchina, si ha lo spostamento dell'automobile, della persona. Sì, tra l'altro spedisce anche la velocità. È interessante, tra l'altro andando poi in internet si trovano siti cinesi che vendono un oggetto del tutto simile in cui c'è un microfono ambientale attivabile da remoto, per cui io se vedo che una persona entra in una certa area accendo il microfono. Allora, visto che noi ci eravamo già preparati su questo, abbiamo già trovato la spiegazione tecnica di questo oggetto. Allora, presentiamo un localizzatore, il Finlock, dei più straordinari e dei più piccoli al mondo. Questo localizzatore è in real time, cioè che localizza in tempo reale, registra i percorsi, in più ha un microfono esterno e interno, poi ha 4 numeri prestabiliti per chiamare, quindi anche un telefonino a tutti gli effetti, e ha un tasto SOS per qualsiasi evenienza. Signor Capasso, questa presentazione l'abbiamo presa dal suo sito, quindi ormai è come se fosse una televendita di pentole o di accessori per la cucina, di frullatori. Tanto è ormai la l'uso... Scusi, la vendita è sempre la vendita. Se si vendono prodotti tecnologici... prima sì, sì, ma non si offenda. Sì, sì, no, per carità, non mi sto ma volevo solo dire che... Anche se lei è molto simpatico, devo dire, la seguo moltissimo. Non si arroffiani nemmeno, però. No, volevo dire, signor Capasso, che ormai... è tale entrato nell'uso comune, nell'accettazione, questi oggetti sono di uso popolare, che come si vende il frullatore, si vende anche la microspia o il localizzatore. Corrisponde all'idea che lei ha del suo pubblico? Cioè, ormai tutti, non sono più persone che hanno particolari aperture tecnologiche, che hanno capito che questi oggetti aiutano, non voglio dire a vivere meglio, ma a, in qualche maniera ad allungare i propri sospetti o i propri desideri di conoscere qualcosa di qualcun altro. Sì, cioè la vendita di questi prodotti, quando si parlava prima di tecnologico, voglio dire qualche anno fa, si parlava di cose, magari uno che non era nel campo, si parlava di cose stratosferiche, incomprensibili, eccetera. Adesso le cose tecnologiche diventano, grazie pure ai taiwanesi, ai cinesi, a chi per sia, che hanno fatto dei prodotti semplicissimi, di uso comune. Un localizzatore, per esempio, io un localizzatore lo metto nella mia macchina e vedo la mia macchina, nel caso che la rubino, dove sta. Se io invece voglio localizzare la macchina di mia moglie, di qualcun altro, dei miei colleghi, eccetera, eccetera, o dei miei dipendenti, lo posso fare assolutamente, è vietatissimo dalla legge. Anche se poi c'è in questo caso una sentenza che dice che la localizzazione fatta oppure la sorveglianza audio fatta in una auto o in una vettura non è domicilio fisso, quindi è domicilio, diciamo, non è domicilio fisso, quindi può essere fatto. Questa è una sentenza. Quindi esiste ancora, diciamo. Questo è un argomento che ci appassiona. Noi venerdì prossimo chiameremo il garante per la privacy, perché vogliamo dedicare il venerdì a questo problema che ci sembra molto vicino alla sensibilità contemporanea. Il guardare, l'essere guardati, l'essere espansi nel tempo e nello spazio, ma allo stesso tempo avere il grosso limite di lasciare tracce di noi stessi. Vedo già, ci sono molte telefonate, signor Antimo, di persone che invece hanno il problema contrario. Vorrebbero sapere come si bonifica l'ambiente, temono di essere sorvegliati, come Costantina Colline, chiamerò tra un istante, e vorrebbero sapere anche quali sono le ricette per scoprire questi meccanismi. Cellulare completo di software per registrazioni ambientali e conversazioni telefoniche senza bip. Penna stilografica con microcamera occultata per registrare audio e video. Straordinario localizzatore GPS GSM con sistema di localizzazione completa di cartografia con SMS di ritorno che indica la strada, la città, il numero civico. Stiamo parlando di tecnologie per spiare, stiamo parlando di timore d'essere spiati, visto che l'argomento è molto interessante e il tema della liceità o meno di usare questi meccanismi sta molto a cuore ai nostri ascoltatori. vi ripeto che venerdì prossimo avremo in studio Francesco Pizzetti, che è il presidente dell'autorità garante per la privacy, a cui potrete rivolgere tutte le domande che avete, tutti i dubbi che avete sulla privacy. Qualche messaggio mi arrivano via sms, mi chiedono se è fantascienza o realtà, ma siamo già alla possibilità, mi dice un altro ascoltatore, di iniettare transponder a cristalli liquidi come codice a barre con i dati della filiera per il bestiame, quindi se li possiamo iniettare nelle bestie, perché no nei cristiani, negli esseri umani, diciamo. Poi diciamo, ricorda l'ultima pagina dei periodici, ma si parla di 30 anni fa minimo, con la vendita di occhiali a raggi X e penne per registrare i microspie. Gli occhiali a raggi X, quelli con me li hanno comprati, sanno che era una delle più divertenti bufale. Poi Bruno su Facebook, sul social network di cui parleremo tra un po', che è oggi oggetto anche di attenzione giornalistica, mi dice che c'è una banca a Milano, in Viale Sarca, dove gli impiegati pare si dilettino a guardare le registrazioni notturne di carico e scarico di trans dalle auto e fanno a gara di riconoscere i loro clienti fra chi fa questo tipo di esercizio. Ho già detto che 800240024 è il numero per chiamare e avere informazioni, dato che abbiamo un esperto di intercettazione e microspie, perché le fa, le costruisce, le vende in studio. Abbiamo però al telefono Costantino, che già dalla prima parte ci aveva chiamato. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è terrorizzato? No, non sono terrorizzato, ma sono senz'altro curioso. Che stavo in particolare a sapere, siccome questi metodi in effetti hanno una loro utilizzazione tipica e una atipica, rispetto alla utilizzazione atipica o vietata, cioè quella della spia all'insaputa del possessore del telefonino, volevo sapere se c'erano modi per capire che il proprio telefonino è stato invaso con software di questo tipo e come scoprirlo, appunto. Ecco, questa è la prima domanda. Andiamo avanti a un'altra domanda. Albertino, anche lei avrà una domanda da fare all'esperto. Sì, buongiorno. Mi sente? Sì, benissimo, perfettamente. Beh, intanto sono un po' un momentino così, che ho preso la diretta. No, niente, io comunque non sono assolutamente d'accordo su questi metodi che violano tutta la privacy di noi, sono assolutamente contrario, perché non c'è un beneficio che ne traiamo, c'è solo comunque Sì, ma è come dire, non sono d'accordo a prendere un calcio sulle palle, è chiaro, però c'è sempre, esatto, chi li dà. Nel mio specifico, comunque al di là che non sono comunque d'accordo su tutti questi sistemi di spie, però esistono. Ecco, comunque non so, a me hanno proposto, cioè dove al lavoro, di lavorare con un sistema che sanno benissimo quando mi alzo la mattina, quando vado a dormire, dove sono, cosa sto facendo, qualsiasi cosa. Cioè il suo datore lavoro le ha proposto di... mi daranno questo apparecchio, cioè che io lo voglia o non lo voglia, cioè o mi dimetto o mi deve stare comunque bene. E cos'è? Un palmare? Cos'è? Esatto. Un palmare con GPS che registra tutto quello che lei fa. Sì, ma al di là del mio comunque diciamo lavoro, che ci potrebbe anche stare, anche comunque dopo mettiamo in discussione qualsiasi cosa, rapporto di fiducia e via dicendo, però che mi controlli anche quando vado a dormire o dove sono in qualsiasi posto, cioè... Cosa... Lei dovrebbe dare un consenso a mettersi addosso questa consapevolmente, questa sorta di spia che segnala i suoi movimenti. È che purtroppo di giorno ci sono delle cose che dobbiamo accettare perché... Ma sono questi sistemi che molte volte le aziende mettono per raggiungere obiettivi di efficienza, per dare nei computer... mi è stato telefonato, un altro ascoltatore, mi ha detto che molte aziende chiedono di mettere nel software dei software nei computer dei dipendenti, per avere il backup delle email dei dipendenti. Non mi risulta ufficialmente, ma so che esiste questa possibilità. Sì, però è un meccanismo che può essere visto in diversi modi. Comunque sta di fatto che mi possono controllare quando mi alzo la mattina, dove sono il sabato mattina, dove sono il sabato pomeriggio. Il punto è un po' come il braccialetto che danno ai carcerati quando li lasciano in libertà. Però viviamo in una società, purtroppo, dove sei anche, come dire, ricattato, perché ti dicono se non ti va bene così, quella è la porta. Quindi si ha poco da obiettare anche se una cosa non ci va proprio a genio. Questo è un problema che rivolgeremo, una delle tante domande rivolgeremo al garante la privacy venerdì prossimo. La saluto e passiamo ad Angela. Angela pure ha un problema simile. Angela, buongiorno. Buongiorno, no, io non ho un problema di questo genere, sono la nonna e volevo chiedere questo. Siccome ho dei nipotini che percorrono un certo tratto di strada per andare a scuola con una persona, diciamo non della famiglia, una brava persona però, e ho sempre il terrore, devo dire la verità, che qualche altra persona che si intrometta, che si possa intromettere tra il bambino e la badante e che lo rubi, che gli faccia del male, soprattutto persone negative che possono fare del male ai bambini. Quindi vorrebbe un bada badante? Ecco, non per controllare la badante, assolutamente, per controllare una terza persona. E chiedevo se fosse possibile, non so il nome di tutti questi aggeggi, non li ho capiti, comunque se esiste, e mi pare di sì, un aggeggio da mettere nella cartella del bambino, nello zaino. Meglio addosso, perché poi si rubano la cartella. Meglio addosso, meglio ancora. Quindi lei vorrebbe mettere una microspia, un sorvegliante al bambino per sapere sempre dove sta. Penso sia un desiderio che hanno avuto molte mamme, ma penso che esistano qualcosa del genere. Io so che ho un ascoltatore, produttore di carrozzine per bambini, ci sono le carrozzine con il GPS, cioè con quel sistema di rilevamento satellitare, che proprio hanno questa funzione. Se qualcuno se la ruba col bambino dentro, perlomeno si può avere idea dove sia andata. Sentiamo il nostro esperto Antimo Capasso, titolare della No Detective, che costruisce questi aggeggi. Prima domanda, esistono questi attrezzi di sorveglianza volontaria che usano le aziende? Sì, esistono. Come si chiamano? Vabbè, sono localizzatori in effetti, o comunque i localizzatori messi in un automezzo di un dipendente. Una macchina aziendale, diciamo. La macchina aziendale deve avere il consenso della questo poi risponde meglio il garante della privacy. E meglio i sindacati, comunque deve avere sempre un nulla osta dal dipendente o dal sindacato a cui si appartiene. Sì, perché non possono essere messi sistemi di sorveglianza sul personale. No, assolutamente, nemmeno telefonini, nemmeno quello che si vuole. Bisogna chiedere prima, nemmeno i software che ho sentito prima nei computer, esistono dei software, ma sono stati annullati, se non almeno ridimensionati nelle loro attività, e questi software che per il controllo dei computer per le aziende, dove assolutamente non si può monitorare l'attività che fa un dipendente. Senta, invece la domanda della nonna, dei sistemi di sicurezza da applicare ai bambini in qualche maniera, esistono? Sono i GPS personal tracker, cioè sono dei GPS che danno la capacità di sapere dove si trova il bambino. Sì, sono in vendita tranquillamente questi. Sì, questi. Cosa è un braccialetto, una medaglia? I nascono proprio per questo. Sì, ma com'è fisicamente? Come si prende un braccialetto? Dove si mette addosso? No, si può essere anche un cioè tipo braccialetto per cani, perché esistono anche per cani da caccia, eccetera. Cioè, lo stesso modello vale sia per il cane che per il bambino. Simile. Diciamo è un accostamento un po' che non mi piace, però voglio dire è così. Così, perché poi in effetti bisogna sapere dove sta il bambino, quindi la funzione è quella della localizzazione. In questo non occorre consenso altro, essendo un minore il genitore ha diritto di usare tutti gli strumenti per salvaguardare il minore. Consenso della madre e del padre. Certo, c'è sempre un necessario consenso congiunto. Chicco, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi fa piacere sentirla. Voglio raccontare questo curioso episodio. Io possiedo una stampante della Xerox che chiama da sola il tecnico quando finisce il toner. Allora, ho anche il vago sospetto che poi qualcuno da remoto possa fare uno spooler e quando io sono in rete possa stampare tutto quello che io ho già stampato. Ah, senz'altro, perché c'è questo sospetto. Io infatti ho disattivato anche la mia stampante, aveva questa funzione, chiamava, e ho disattivato questa funzione perché mi piace essere padrone e comprare il toner quando voglio, dove voglio, del tipo che voglio io. Grazie. Federico, buongiorno. Buongiorno. Io mi occupo quotidianamente di questi temi dall'altra parte, nel senso che sono amministratore di una società svizzera, CANSA, che si occupa di sviluppare strumenti per la protezione della privacy. Quindi Capasso vende e lei disattiva. Esatto. In realtà, adesso non vorrei gettare il terrore, però il vero problema non è tanto il fatto che il consenso serva per poter utilizzare uno strumento di monitoraggio. Il vero problema è che molti non sono interessati al fatto che possano legalmente avere il consenso di chi è ascoltato, chi è intercettato. Beh, è chiaro, questo è logico. Ma se è un mio concorrente, abbiamo appena visto un intervento della nonna che vuole controllare il bambino, ma se io voglio controllare i miei dipendenti, gli metto qualcosa nel loro computer, sono cose che pochi sanno. Si parla anche del fatto, si parlava di stampanti, del fatto che sia possibile riconoscere da un foglio stampato quale sia il numero seriale della stampante. Senta, le faccio una proposta. Lei mi sembra ben documentato. Se la richiamassi venerdì prossimo, mi aggiungerebbe qualcosa a quello che ha già detto? Volentieri, volentieri. Va bene, allora la saluto. Siamo in chiusura di questa parte. Saluto Antimo Capasso, saluto tutti quelli che ci hanno fatto domande e preparatevi, fra un po' saprete come Novella 2000 è entrata a gettare fuori gli stracci dei VIP in Facebook. A tra un istante. Perché un uomo dovrebbe uscire da casa sua tre volte in una notte sotto il temporale con la valigia in mano e rientrare poco dopo? Perché non è entrato in camera da letto per tutto il giorno? Non oso darti una risposta. C'è qualcosa di marcio sotto. E tu farai marcire me? È uscito pochi minuti fa con la sola camicia e non è ancora tornato. Jeff, ma non ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Che ti prende? Stare qui a guardare dalla finestra per passare il tempo è un conto, ma a farlo come lo fai tu, con il binocolo, formulando delle opinioni assurde su tutto quello che vedi, è addirittura morboso. Pensate, era l'anno 1954, nasceva la televisione italiana, nascevo io e tanti altri miei coetanei, la finestra sul cortile di Alfred Hitchcock comincia a delineare questa sorta di lussura tecnologica di scrutare dentro il giardino del nostro vicino. Jeff, che è immobilizzato temporaneamente, passa il tempo a guardare col binocolo quello che fanno i vicini di casa. Devo dire che questa è un'attività oggi molto facilitata, abbiamo già sentito in prima parte, grazie a tecnologie raffinatissime che ognuno poi può procurarsi facilmente per sapere i fatti altrui, esiste, come ho già detto in prima parte, una sorta di branca del giornalismo che ama seguire questo desiderio collettivo di guardare oltre il cortile. Non tutti i cortili sono accessibili, i cortili delle persone eccelse, quelle più visibili, sono più difficile essere varicati, ma probabilmente più pieni di cose interessanti. Novella 2000 è un giornale che si occupa comunque di raccontare quello che fanno i personaggi famosi, di mettersi d'accordo con personaggi famosi perché lo si racconti quello che loro fanno. Esistono varie tecnologie per capire questo, ma Novella 2000 ha fatto qualcosa di nuovo. Non lo faccio per celebrare il giornale, non me ne importa nulla, ma bisogna dare ragione ai primati. Per la prima volta, invece che mandare fotografi, paparazzi o concordanti dare con i VIP le loro foto rubate, hanno mandato una loro emissaria su Facebook. Facebook è il social network, è un'area web dove ognuno va, si apre un suo profilo, mette le proprie foto, racconta i propri fatti, insomma fa quello e mette in mano al giornalista che avrebbe dovuto fare con un lavoro abbastanza noioso, fastidioso e lungo. E questa mattina, me compreso, c'è una serie di personaggi famosi, fra cui anche il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, ma anche Bruno Vespa, Gianni Riotta, Luca Telese, che stiamo cercando al telefono, Filippo Facci, una serie di personaggi che si erano aperti il loro profilo in Facebook, qualcuno un po' ingenuamente metteva anche le foto di casa sua, qualcun altro raccontava i fatti suoi, e questa mattina sono stati presi e spubblicati su Novella 2000. La responsabile di questo, l'amata Ari di Facebook, è Marianna Aprile, che questa mattina abbiamo al telefono. Marianna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tu subirai delle conseguenze nefaste per il tuo gesto, lo sai? Lo so, sono in esecuzione, aspetto qualcuno. Come vedi, io già questa mattina ho messo la tua foto su Facebook, quindi sei stata anche te resa pubblica, perché naturalmente chi la fa se l'aspetti. Allora, questa idea come ti è venuta? Ti è stato facile, naturalmente, gioco facile, visto che sono così ingenui molti a mettere anche le loro foto personali? Sì, venuta da un articolo fatto qualche settimana fa, sempre per Novella, in cui, dopo aver intervistato Riccardo Bossi, il figlio grande e un po' ostigato, diciamo la verità, del senatore, avevo tentato un'amicizia su Facebook con il delfino Renzo, che, avendo accettato la mia stessa amicizia, mi ha fatto accedere Posto. Senti Marianna, scusa, ti si sente malissimo, probabilmente hai il telefono intercettato. Se metti giù un attimo, ti richiamiamo perché sento veramente male. Intanto parlo con Giovanni che mi ha chiamato. Chiamatela velocemente perché mi interessa, Matari deve dire la sua, alcune domande da farle. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, sentissimo. Non ho seguito la trasmissione dall'inizio, ma volevo essere rapidissimo. Volevo ricordare che come nel campo per gli animali, per i pet, gli animali di compagnia, si applicano i chip, sono a conoscenza che queste stesse cose vengono usate anche per gli uomini, soprattutto in ambienti di molto altolocati, per il recupero di figli, figliastri, amici, naturalmente consenzienti. Non faccio, cioè, ad esempio l'India è un paese dove regolarmente grossi proprietari ricchissimi pretendono che siano applicati in zone naturalmente non dolorose microchip ai figli come agli animali, in modo che possano essere individuati qualsiasi. Lei ha documentazione certa di questo? Perché guardi, noi siamo della trafila di coloro che preparano il materiale apposito, biologicamente inattivo, per poter essere attivato. Naturalmente, ma come lei saprà sicuramente che per quanto riguarda gli animali c'è l'abitudine di apporre dei microchip per il riconoscimento tramite elettronica, no? Sì. Dell'identità. Esatto, la stessa cosa viene assolutamente applicata e d'altro canto mi meraviglio che la gente non ci abbia pensato prima. Ma qualcuno ci ha pensato, guarda, adesso le dirò, le confesserò. Da tempo seguivo una traccia, un chirurgo plastico stava per dirmelo, poi quando sono andato col registratore si è ammutolito, che capita qui in Italia che alcuni personaggi, a volte appartenenti a ricchi paesi stranieri, portino la moglie per applicare il microchip sotto pelle. Se avesse qualcuno che mi ascolta tracce più precise e certe di questa storia del microchip, mi farebbe una grande cortesia perché sarebbe uno stupendo argomento di trasmissione. Abbiamo recuperato intanto Marianna Aprile. Marianna, ci sei? Eccoci. Oh, adesso ti sento benissimo. Allora, velocemente, il piacere di essere sorvegliati in fondo appartiene anche al mondo dei cosiddetti VIP. Adesso lo hai dimostrato te guardando come persone famose non avessero nessun scrupolo a mettere su Facebook foto loro personali, ma molte volte soffrono se poi voi di Novella 2000 o giornali con simili non mostrano le loro foto rubate, o sbaglio? Ma in realtà la novità del mezzo è nel fatto che permette di intercettare dettagli di persone, di quelli che non vanno a Cortina in Costa Smeralda a mettere in piazza. Infatti ci hai messo anche me che faccio una vita molto riservata. Cosa? Hai messo anche me che notoriamente faccio una vita molto appunto, riservata. Cioè, ti sfido a beccarmi in un luogo di VIP. Cosa? No, ti sfido a beccarmi in uno di questi posti qua, Cortina, Costa Smeralda. Quindi abbiamo dovuto cercare su Facebook. Senti una cosa, invece, quante persone spontaneamente, non professionisti, non paparazzi, non giornalisti specializzati, vi segnalano foto fatte con il cellulare di personaggi famosi? Esiste questo piacere della sorveglianza, certo, il VIP watching, della cattura della foto rubata al VIP che poi si passa subito al giornale? Certo, no, capita spessissimo, tra l'altro girano anche dei miti assurdi su quanto vengono pagate queste foto, quindi è un continuo provarci. Non si becca molto, però il piacere di aver sputtanato la persona famosa è grandissimo. Certo. È una sorta di rivolta degli schiavi nei confronti dei VIP. Beh sì, anche perché diciamo che è un po' un gioco perverso, no? La tecnologia, i telefonini con le fotocamere, eccetera, hanno solo reso più, sì, però più semplice un rende qualcosa. Molto più facile il tuo lavoro, in parte anche il mio a volte. Ah, beh, certo. Va bene, ma Marianna, rende anche sì. Più difficile fare il VIP, perché in questo caso Facebook, eccetera, in qualche modo obbligano anche alla coerenza, cioè se io nel mio profilo scrivo qualcosa sono in qualche modo tenuto a tenerne conto, no? Nelle però non sempre i VIP hanno consapevolezza di questo, molte volte personaggi più famosi che appaiono in questi luoghi in rete in realtà sono i loro uffici stampa, i loro tirapiedi, i loro addetti all'immagine, quindi ahimè bisogna anche ricercare dov'è la verità. Nell'attesa che Marianna Aprile sia presa e fucilata al muro come tutte le spie, come a Matari e a tante altre dagli utenti di Facebook, vi ricordo la replica alle 22 questa sera, 800 24 00 24 00 24, il numero per chiamare in diretta, 800 800 28 11 11, se volete lasciare le vostre storie nella nostra segreteria telefonica, e noi ci sentiamo lunedì. Melog 2.0